Garibaldi fu ferito ad una gamba. Gazzettino del Risorgimento, la storia dell'Unità d'Italia. Per Garibaldi, viva! Da maggio a luglio del 1821. Napoli, Ferdinando I in città verso la condanna a morte per i capi della rivolta. Grecia e i ribelli sconfitti a Dragasani dall'esercito ottomano. Sud America, il Venezuela è indipendente. Mega vincite al lotto sulla morte di Napoleone. Una buona giornata da Simone Spezia, dalla redazione del Gazzettino del Risorgimento. In apertura di questa edizione, la repressione durissima che si sta scatenando nel Regno delle Due Sicilie. Se un sovrano può dirsi commissariato, di certo quello delle Due Sicilie lo è. E il commissario si chiama Clemens von Metternich, cancelliere austriaco, gran custode della Restaurazione. Il suo delegato è l'esercito di Vienna. I battaglioni che hanno sconfitto i rivoluzionari guidati da Guglielmo Pepe nel Reatino hanno accompagnato Ferdinando al suo rientro a Napoli e resteranno là, pare, a lungo, con l'accordo che saranno i Borbone a pagarne il mantenimento. Il 23 marzo la Costituzione è stata sospesa ed è iniziata la repressione, col re costretto a mostrare una durezza che forse non gli apparterrebbe per compiacere le grandi potenze. Al Ministero della Polizia è stato richiamato un ultraconservatore, Antonio Capelli, fece Minutolo, principe di Canosa, autore tra l'altro di un libro, I piffari di montagna, e di opere teatrali spiccatamente contro rivoluzionari e antiliberali. Ma proprio per questo intenzionato, ha dichiarato lui stesso, a usare il minimo della forza e il massimo della filosofia. Eppure i carbonari sentono il fiato della repressione sul collo, i processi stanno iniziando e molte sono le probabili condanne a morte, visto che la fattispecie di reato, la cospirazione, prevede esattamente questa pena. La pena capitale è già stata comminata a Pepe, che però è in fuga, come pure Morelli e Silvati. A nulla è servita la resistenza siciliana e gli sforzi del generale Giuseppe Rosarol. Gli austriaci sono entrati in Palermo il 31 maggio. Paolo Piacenza, il Gazzettino del Risorgimento, Radio 24. Non si fermano intanto le violenze in Grecia, dove si lotta per l'indipendenza dall'impero ottomano. I fronti sono due, da una parte quello interno, dall'altro l'assalto che un esercito guidato da un ex generale dell'armata russa, il greco Alexander Ypsilanti, sta portando contro i principati danubiani e la Moldova in particolare. Ypsilanti è stato sconfitto definitivamente dai turchi a Dragasani, 200 km ovest di Bucarest, ed è stato arrestato dagli austriaci. A Costantinopoli intanto, accusato di non aver saputo contenere la rivoluzione, il patriarca Gregorio V è stato fatto impiccare dal sultano nel giorno di Pasqua, subito dopo la celebrazione della messa, e il suo corpo lasciato esposto per 3 giorni. Sembra aver avuto successo invece la battaglia per l'indipendenza venezuelana. Le forze guidate da Simón Bolívar hanno sconfitto quelle spagnole definitivamente nella zona di Carabobo. Nel giorno del suo successo, Bolívar, oltre a piangere la morte del suo adorato cane, Nevado, ha ricordato il suo legame con l'Italia. Sul Monte Sacro a Roma pronunciò giovanissimo il solenne giuramento che avrebbe lottato per la libertà del suo popolo. E restiamo in America. 5 milioni di dollari e la rinuncia a qualsiasi pretesa sul Texas. E questo è il prezzo pagato dal governo americano a quello spagnolo per la Florida, un territorio a sud-est degli Stati Uniti. La soluzione di questa questione territoriale dovrebbe consentire a Madrid di concentrarsi maggiormente proprio sulla situazione in Sud America. In chiusura una notizia che riguarda il gioco, ma anche la morte di Napoleone. La notizia, che si è diffusa a luglio, ha provocato alcune vincite al lotto superiori alle 200.000 lire complessive. I numeri estratti sono 4, letto, 13, morte, 15, nascita di Napoleone, 46, numero sovrano e 88, detronizzazione. Ed è tutto per questa edizione del Gazzettino del Risorgimento, curata da Paolo Piacenza e Simone Spezia, che l'ha condotta in studio. Se volete scriverci potete farlo prendendo penna e calamaio elettronici a gazzettino@radio24.it. Abbiamo anche una pagina Facebook e un blog. È tutto.